Gentili ascoltatrici e ascoltatori, è stato detto che appena l'uomo parla di Dio, si accorge con terrore di parlare di tutt'altro. Non è solo un'affermazione umoristica questa, ma anche una realtà. In vari libri didattici, in riferimento a Dio, viene messo come premessa che Dio è spirito e perciò non può avere un corpo, e per questo noi non lo possiamo vedere. Che Dio sia spirito non vi è nulla da replicare, perché lo afferma la parola di Dio. Ma quello che è da mettere in discussione è la comprensione di questa affermazione. Proprio perché è opinione comune ritenere che Dio è spirito e perciò non ha corpo, in tre trasmissioni tratteremo l'antropomorfismo della divinità degli ebrei e dei cristiani. L'antropomorfismo, per chi fosse a digiuno di questo termine, significa attribuire alla divinità qualità umane, sia fisica, sia intellettuali che morali. Per correttezza morale, cari ascoltatori e ascoltatrici, non è mia abitudine portare l'ascoltatore a certe conclusioni senza prima aver fatto un certo percorso logico. Porre all'inizio dei presupposti in un ragionamento è fonte di errore, anche per il pensiero più rigoroso. Considerato però che in questo studio dimostreremo che Yahweh, che è Dio, ha un corpo, la prima reazione di chi ascolta è pensare che le seguenti riflessioni siano infondate, perché, come abbiamo appena detto, nel Nuovo Testamento troviamo scritto che Dio è spirito. E noi ripetiamo che su quest'ultimo punto non ci sono dubbi, ma, come esamineremo in un'altra trasmissione, tale affermazione è stata male interpretata. Affinché ciò che andremo ad esaminare sia sin da ora accettato, premetto ciò che considereremo in seguito, e cioè che Yahweh, il Dio dell'Antico Testamento, non è il Padre, come comunemente si pensa, ma Cristo. Anche Calvino, nel suo primo libro dell'opera Istituzione della religione cristiana, al capitolo 13, riconosce che Yahweh è Cristo. Queste riflessioni non hanno lo scopo di voler adombrare la prima persona della Trinità, ma piuttosto di onorarla. Gesù infatti ha detto che il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. Inoltre, poiché Gesù Cristo è Dio e come tale ha assunto un corpo, è stato visto e toccato, le riflessioni che faremo sono quindi in armonia con tutta la scrittura. Come siamo soliti in ogni trasmissione, facciamo un piccolo riassunto di ciò che abbiamo detto fino ad ora. La scrittura attribuisce alla divinità di Israele e dei cristiani tre nomi: Adonai, Elohim e Yahweh. Questi nomi non sono sinonimi per indicare la stessa personalità divina. Perciò la parola di Dio usa una pluralità di nomi per indicare la stessa ed unica divinità. Solo Yahweh è il vero nome proprio della divinità di Israele e dei cristiani. Yahweh è il nome che il Creatore si è dato e che ha rivelato per la prima volta a Mosè. La fede dei santi dell'Antico Testamento non era in un Elohim vago, ma in Yahweh. Il Dio rivelato ad Israele è pluripersonale. Abbiamo pure considerato che l'Elohim ha uno spirito, come pure Yahweh, e che lo spirito è una persona. Gli israeliti, prima della diaspora, credevano in una divinità espressa al plurale e che l'espressione di questa pluralità fosse in Yahweh. Abbiamo considerato che il nome proprio del Creatore è composto da quattro consonanti, da una I, da un H, da una W e da un'altra H. Il tetragramma, non è una parola o solo un insieme di lettere, ma una persona. L'Antico Testamento non si riferisse mai a Yahweh senza attribuirgli dei lineamenti umani. Di per sé questo non è un fenomeno particolare. Le divinità degli altri popoli semiti erano personificazioni di forze naturali o di realtà sociali. Ad esse venivano attribuiti lineamenti e comportamenti umani. È difficile trovare nell'Antico Testamento un antropomorfismo che non abbia paralleli in un'altra antica letteratura semitica, anche se è significativo che certe qualità ascritte agli dei greci, come la sessualità, non siano mai attribuite a Dio nell'Antico Testamento. Eppure, attraverso gli antropomorfismi, è possibile una comprensione di Dio, altrimenti irraggiungibile mediante discorsi più astratti e raffinati. Dopotutto, la parola umana non dispone di nessun altro mezzo adatto a enunciare la realtà ineffabile della divinità. Dio, attraverso la cultura dell'uomo, si esprime con concetti intellegibili che abbiano un senso compiuto. Yahweh è Dio. Non è un Dio astratto, vago, ma è un essere che parla, che vede, che sente, che ha contatti con gli uomini. È il Dio dell'incontro, della familiarità e che, come tale, è conosciuto. Esaminiamo ora, cari ascoltatori, una serie di versetti tratti dalla Genesi funzionali alla riflessione in ordine all'antropomorfismo, considerando se si tratti solo di espressioni atte a riferirsi ad una divinità irreale come quella dei Romani o Greci oppure no. Ascoltiamo la lettura al capitolo 2. Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati nel giorno che l'Eterno Dio fece la terra e i cieli. E ancora? Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Poi l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden, ad oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. E ancora il capitolo 2 al versetti 18-19. Poi l'Eterno Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto conveniente a lui. E l'Eterno Dio formò dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli dei cieli, e li condusse dall'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. E in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ogni essere vivente, quello doveva essere il suo nome. E infine ascoltiamo la lettura del versetto 21 del capitolo 2. Allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo che si addormentò, e prese una parte di lui e rinchiuse la carne al suo posto. Poi l'Eterno Dio, con la parte che aveva tolta all'uomo, ne formò una donna e la condusse all'uomo. Noi siamo abituati a leggere il racconto della creazione e della restaurazione della terra in senso figurato, sia perché questo accostamento non ci espone a grossi problemi teologici, almeno così sembra, sia perché alcuni padri della Chiesa hanno preferito questo tipo di lettura. Inoltre vi è una scuola teologica che preferisce ostinatamente ritenere che i primi capitoli della Genesi siano scritti per una mentalità primitiva. Ma questo è un esempio di cattiva metodologia storica, ermeneutica e teologica. Perché tutta questa serie di verbi di cui abbiamo letto, fece, formò, rinchiuse, tolse, condusse, sono verbi tipicamente adatti ad una realtà antropomorfica, non si addicono ad un Dio astratto, vago, senza alcuna corporietà. Leggere la creazione e la disubbidienza di Adamo ed Eva soltanto ed esclusivamente alla luce del linguaggio figurato impedisce un approfondimento della teologia che sottende al brano biblico. L'antropomorfismo nel testo biblico non è mitigato o nascosto. È proprio grazie a questo stile forte dell'antropomorfismo che si può conoscere il creatore, Yahweh. Ecco cosa leggiamo nel libro di Neemia. Tu solo sei l'Eterno. Tu hai fatto i cieli dei cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che sta su di essa, i mari e tutto ciò che è in essi. Tu conservi in vita tutte queste cose e l'esercito dei cieli ti adora. Continuiamo la nostra lettura nel libro della Genesi al capitolo 3 e versetto 8. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Troviamo che l'Eterno, cioè Yahweh, passeggia nel giardino dell'Eden. Il passeggiare è attribuibile solo ad una persona che è una fisicità e non ad una entità indefinita. Alcuni ritengono questa espressione in senso simbolico, ma non è possibile ritenere simbolico solo il passeggiare di Yahweh e tutto il resto in senso letterale. Se l'Eterno, cioè Yahweh, non passeggiava nel giardino, Adamo ed Eva allora non si nascosero. L'espressione poi secondo la quale Adamo ed Eva si nascosero dalla presenza di Yahweh rivela che accanto loro vi fosse qualcuno. È risaputo che Dio è onnipresente, perciò nascondersi da qualcuno è possibile solo se questo qualcuno ha una fisicità, una corporeità. Non è possibile sfuggire o nascondersi da una divinità che sia evanescente. Non a caso molti teologi vedono in questo frangente il figlio di Dio che parlava con Adamo ed Eva. Ascoltiamo ora la lettura del versetto 21, sempre del capitolo 3. Poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Non possiamo rifiutare come rozzi o primitivi gli antropomorfismi attribuiti a Yahweh. Perché il testo abbia senso, occorre prendere alla lettera il significato di ogni parola. Se queste descrizioni fossero scritte o lette come opera di fantasia, Yahweh non sarebbe più il creatore, ma una creatura della immaginazione. Mediante una fisicità, Yahweh, cioè Cristo, fece le tuniche e vestì Adamo ed Eva. Facciamo ora un'ultima riflessione sempre nel libro della Genesi al capitolo 6 e versetto 6. E l'Eterno si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. La parola di Dio non presenta il Dio degli ebrei e dei cristiani unicamente con caratteristiche antropomorfiche, ma anche antropopatiche, cioè attribuire alla divinità passioni umane, psichiche. Addolorarsi e pentirsi, al di là dei significati figurativi che attribuiamo loro, sono comunque verbi molto forti, perché espressi con un linguaggio tipicamente adatto alla persona umana, più che a una divinità impersonale. Ma vi sono ancora tante cose da dire in merito all'antropomorfismo di Yahweh e ne parleremo nelle altre due trasmissioni. Ciao a tutti e l'Eterno il nostro Dio volga il suo sguardo benevolo verso di noi. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, l'Eterno il nostro Dio vi dia di cogliere il senso e lo spirito della sua parola. Nella trasmissione precedente abbiamo iniziato a considerare l'antropomorfismo della divinità degli ebrei e dei cristiani, cioè di Yahweh. L'antropomorfismo, per chi non conoscesse il termine, significa attribuire alla divinità qualità umane, sia fisiche che intellettuali. Questo è un argomento non da poco, perché per gli ebrei la divinità non può avere un corpo. Opinione questa condivisa anche da altre religioni. Eppure, se vi è una verità lampante, Yahweh, appunto la divinità dell'Antico Testamento, ha una fisicità che è indiscutibile. Abbiamo già preso in esame come nel giardino dell'Eden Adamo ed Eva udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino della brezza del giorno. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Abbiamo preso atto che il passeggiare è attribuibile solo ad una persona che ha una fisicità e non ad una entità indefinita. L'espressione secondo la quale Adamo ed Eva si nascosero dalla presenza di Yahweh rivela quindi che accanto loro vi fosse qualcuno. È risaputo che Dio è onnipresente, perciò nascondersi da qualcuno è possibile solo se questo qualcuno ha una fisicità, ha una corporeità. Non è possibile sfuggire o nascondersi da una divinità che sia evanescente. Non a caso, quindi, molti teologi vedono in questo frangente il figlio di Dio che parlava con Adamo ed Eva. Credo che questo sia l'unico modo di comprendere ciò che leggiamo nella parola di Dio, perché se interpretiamo il libro della Genesi in maniera poetica, non riceviamo il messaggio di Dio nella sua realtà. È molto strano che alcuni commentatori continuino a sostenere che l'autore del libro della Genesi non pretende di raccontare avvenimenti storici, mentre Gesù e gli apostoli hanno interpretato letteralmente gli avvenimenti descritti nella Genesi. In merito al problema del divorzio, per esempio, Gesù rispose ai giudei: «Non avete voi letto che chi li creò da principio li creò maschio e femmina?» Secondo Gesù, l'esistenza della razza umana divisa in due classi sessuali non è il risultato di un caso, ma di un atto creativo di Dio, atto descritto nel libro della Genesi. Continuiamo ora la nostra ricerca in merito all'antropomorfismo della divinità degli ebrei e dei cristiani. Ascoltiamo la lettura del capitolo 7 nel libro della Genesi in merito al diluvio. Gli animali vennero da Noè nell'arca a due di ogni carne in cui vi è alito di vita. Entrarono maschio e femmina di ogni carne, come Dio aveva comandato Noè. Poi l'Eterno li chiuse dentro. Come possiamo interpretare l'espressione «l'Eterno li chiuse dentro»? Se, considerando l'espressione in senso figurato, non vi sono più regole per interpretare la scrittura. Se è reale ciò che è descritto prima, e cioè che gli animali entrarono nell'arca, lo è pure questa espressione. Non rimane quindi che accettare semplicemente che Yahweh, con una fisicità corporea, abbia chiuso l'arca. Troviamo inoltre quasi palpabile la presenza dell'antropomorfismo di Yahweh anche nel racconto della torre di Babele. Ascoltiamo. Ma l'Eterno discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. E l'Eterno disse: ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti la medesima lingua. E questo è quanto essi hanno cominciato a fare. Ora nulla impedirà a loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Orsù, scendiamo laggiù e confondiamo la loro lingua, affinché l'uno non comprenda più il parlare dell'altro. Secondo il Salmo 139, La divinità degli ebrei e dei cristiani è ovunque, cioè onnipresente. Affermare che l'Eterno, cioè Yahweh, discese, comporta l'idea che egli si trovava in un luogo e non in un altro. Questo è possibile solo se Yahweh ha una fisicità, un corpo. Il verbo discendere fa comprendere anche che Yahweh vive in una dimensione assimilabile a quella spazio-temporale, nella quale può calarsi e che, comunque, non gli è totalmente estranea. Noi siamo costretti a dare tale spiegazione. Diversamente ci è impossibile comprendere il verbo scendere riferito a Yahweh. Vedremo lo stesso verbo anche quando Yahweh apparve a Mosè sul monte Sinai, scendendo sul monte. Anche l'incontro di Yahweh con i patriarchi, se non lo si considera in senso figurato, ha dell'incredibile e fornisce una chiave di lettura nuova che rende molto più verosimile una interpretazione non meramente simbolica. Ascoltiamo la lettura nel libro della Genesi al capitolo 17. Quando Abramo ebbe 99 anni, l'Eterno gli apparve e gli disse: «Io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro, e io stabilirò il mio patto fra me e te, e ti moltiplicherò grandemente». Quando leggiamo che l'Eterno apparve ad Abramo, nella nostra mente possiamo pensare ad una visione o a qualcosa di simile. Ma la scrittura fa delle differenze tra visione e apparizione. In effetti, leggiamo nella scrittura che Yahweh parlò in visione sia ad Abramo sia a Giacobbe, ma in questo caso Yahweh si fece vedere. Infatti in ebraico abbiamo un verbo che esprime il concetto di farsi vedere, cioè di percepire o scorgere con gli occhi qualcosa, o, nel nostro caso, qualcuno. Che Abramo parlasse con qualcuno avente una propria fisicità lo dimostra il seguito del racconto. Ascoltiamo. Quando ebbe finito di parlare con lui, Dio lasciò Abramo levandosi in alto. Attraverso quest'ultima espressione, e cioè che Dio lasciò Abramo levandosi in alto, comprendiamo che Abramo aveva a che fare con una presenza viva e corporea, cioè l'unica rispetto alla quale abbia senso il concetto di allontanamento da qualcuno e di elevazione rispetto al piano terrestre su cui si trovava il patriarca. Lo stesso episodio si trova nella vita di Giacobbe, descritto nel libro della Genesi, al capitolo 35. Ascoltiamo. Così Giacobbe giunse a Luz, cioè Betel, che è nel paese di Canaan, egli con tutta la gente che era con lui. E là egli costruì un altare e chiamò quel luogo El Betel, perché là Dio gli era apparso quando egli fuggiva davanti a suo fratello. Allora morì Debora, balia di Rebecca, e fu sepolta al di sotto di Betel, ai piedi della quercia, che fu chiamata Allon Bakut. Dio apparve ancora a Giacobbe quando questi veniva da Paddan Aram e lo benedisse. E Dio gli disse: «Il tuo nome è Giacobbe. Tu non sarai più chiamato Giacobbe, ma il tuo nome sarà Israele». E gli mise nome Israele. Dunque, anche Giacobbe ebbe occasione di vedere coi propri occhi la divinità invisibile di Israele in due posti diversi. Che Giacobbe abbia visto l'Eterno, cioè Yahweh, a Betel, concorda con quanto più tardi scrisse il profeta Osea. Ascoltiamo. Yahweh lo trovò a Betel e là egli parlò con noi, cioè l'Eterno, Dio degli eserciti, il cui nome è l'Eterno. In seguito Yahweh si fece vedere di nuovo Giacobbe quando questi veniva da Paddan Aram In quell'occasione l'Eterno cambiò il nome di Giacobbe in Israel e gli fece delle promesse. In seguito noi leggiamo: «Poi Dio salì in alto da lui, dal luogo dove gli aveva parlato». Abbiamo anche in questo caso una presenza corporea che si allontana dal patriarca. Il fatto che Dio salga in alto o si allontani da lui, come tradotto in altre versioni, non è certamente da prendere in modo allegorico, anche perché non costituisce un episodio unico. Troveremo un episodio simile con protagonista l'angelo dell'Eterno e un altro avvenuto millenni più tardi, di cui sarà protagonista Gesù Cristo stesso. Nulla di strano, quindi, che qualcuno con una fisicità si scosti di Giacobbe e che il patriarca lo identifichi con Dio. Infine, nel libro dell'Esodo, il capitolo 33, Yahweh si rivela a Mosè usando un linguaggio fortemente antropomorfico. Ascoltiamo. Allora Mosè disse: «De, fammi vedere la tua gloria». L'Eterno gli rispose: «Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. Farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà». Disse ancora: «Tu non puoi vedere la mia faccia, perché nessun uomo mi può vedere e vivere». Quindi l'Eterno disse: «Ecco un luogo vicino a me, tu starai sulla roccia, e mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una fenditura della roccia e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai di spalle, ma la mia faccia non si può vedere». I verbi che abbiamo letto sono di chiara matrice antropomorfica. L'espressione di Yahweh: «Non puoi vedere la mia faccia, ti coprirò con la mia mano, mi vedrai di spalle», non possono essere considerate in senso metaforico, perché renderebbe l'accaduto senza significato. Da notare che Mosè non chiede a Yahweh di vederlo, perché egli lo vedeva costantemente. La testimonianza di Yahweh che diede ad Aronne e a Maria a riguardo non lascia dubbi, quando disse: «Con lui io parlo faccia a faccia, facendomi vedere, e non con detti oscuri, ed egli contempla la sembianza dell'Eterno». Mosè chiede quindi di vedere la gloria dell'Eterno. A questa richiesta l'Eterno, cioè Yahweh, risponde che è impossibile vedere il suo volto glorioso. I testimoni di Geova agli ebrei citano questo brano per dimostrare che Dio non si può vedere. Ma, se facciamo attenzione alla lettura, le conclusioni sono opposte. Se Yahweh fosse incorporeo, che cos'è che non poteva vedere Mosè? Se Yahweh non aveva forma umana, perché Mosè non poteva vedere la sua faccia? Se il discorso di Yahweh, in riferimento alla sua persona, era simbolico, perché allora il divieto era reale? Un fatto è certo: Mosè non poteva vedere, e questo vedere era riferito alla sembianza umana gloriosa. La parola di Dio non lascia spazio ad altre interpretazioni o conclusioni. Ma vi è ancora molto da dire, e proseguiremo per concludere nella prossima trasmissione. Ciao a tutti. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, vi do il mio più caloroso e sentito benvenuto all'ascolto del nostro programma. Ritengo molto importanti le riflessioni che sto portando avanti da due trasmissioni in merito all'antropomorfismo di Yahweh. Credo che l'attribuire alla divinità dei cristiani e degli ebrei qualità umane, sia fisiche, sia intellettuali, che morali nell'Antico Testamento, sia più che indispensabile al fine di poter credere in seguito che Dio si è fatto uomo in Cristo Gesù. E non solo. Dimostrare che nell'Antico Testamento Yahweh ha un corpo, una fisicità visibile, palpabile, significa infierire un colpo mortale a tutta quella interpretazione allegorica di una certa scuola liberale. A proposito, desidero farvi ascoltare ciò che troviamo scritto in una prefazione di una Bibbia regalata da un sacerdote a tutti i suoi parrocchiani, il cui titolo è «Il linguaggio delle immagini». Il linguaggio umano è ricchissimo di immagini. Anche la Bibbia usa il linguaggio delle immagini. Nei primi capitoli della Genesi ne troviamo moltissime. Le luci del cielo, la polvere del suolo con cui viene plasmato l'uomo, la costola di Adamo, l'albero della conoscenza del bene e del male, il serpente che parla, il frutto proibito e così via. Alcune di queste immagini sono prese dalla letteratura di altri popoli più antichi di quelli di Israele. Attraverso questo modo di parlare e di raccontare gli avvenimenti, i redattori delle prime pagine della Genesi ci mettono di fronte al mistero di Dio. Ispirati da Lui, guidati dal Suo Spirito, vogliono dirci in maniera poetica e incisiva che Dio è presente e vivo nella storia degli uomini, li ama, attende da loro risposta. Tutti possono leggere con frutto queste pagine piene di immagini. Cari ascoltatori, devo dirvi che non vi è nulla di più deleterio che presentare la parola di Dio sotto queste spoglie. Se ciò che leggiamo descritto nella Bibbia sono solo immagini poetiche, come per esempio il profeta Giona che viene inghiottito da un pesce, o la divisione del Mar Rosso per ordine di Mosè, allora Yahweh, la divinità degli ebrei e dei cristiani, non è il Dio che interviene nella storia, ma rimane solo un concetto astratto. Proprio per evitare che tramite la nostra lettura quotidiana della parola di Dio ci formiamo nella mente una divinità immaginaria, ho dedicato appunto 3 trasmissioni per dimostrare che Yahweh è una realtà con una fisicità umana, con una presenza corporea. Che la presenza di Yahweh fosse corporea nell'accampamento di Israele era evidente. Ascoltiamo cosa cantarono gli israeliti dopo aver attraversato il Mar Rosso secondo la traduzione interlineare in ebraico. Yahweh è la mia forza e il mio cantico ed è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio, io lo glorificherò. È il Dio di mio padre e io lo esalterò. Yahweh, uomo di guerra, Yahweh, nome suo. La presenza corporea di Yahweh si evidenzia anche nel discorso di Mosè in favore del popolo, quando Yahweh era deciso di sterminarlo. Ascoltiamo. Mosè disse all'Eterno: ma lo udranno gli egiziani, di mezzo ai quali tu hai fatto salire questo popolo per la tua potenza, e lo faranno sapere agli abitanti di questo paese. Essi hanno udito che tu, o Eterno, sei in mezzo a questo popolo, che ti mostri loro faccia a faccia, che la tua nuvola sta sopra di loro e che cammini davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola e di notte in una colonna di fuoco. Gli egiziani e i popoli circonvicini sapevano che Israele era stato liberato tramite l'Eterno, cioè Yahweh. Erano al corrente di questa presenza nel campo di Israele e che Yahweh camminasse fisicamente davanti al suo popolo e che questa presenza fosse visibile con la colonna di fuoco e la sua nuvola. Altre traduzioni rendono la tua nuvola sta sopra di loro. Proprio perché gli altri popoli erano al corrente della presenza della divinità tra gli israeliti, se il popolo di Israele non fosse arrivato nella terra promessa, Yahweh, come divinità, sarebbe stato disprezzato da tutti i popoli. Anche le profezie riguardante Yahweh presentano il loro aspetto umano. Ascoltiamo la lettura nel libro di Zaccaria, al capitolo 14. Poi l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni, come combatté altre volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a est, e il Monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo da est a ovest, formando così una grande valle. E ancora il capitolo 12. Riverserò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi guarderanno me. A colui che hanno trafitto faranno quindi cordoglio per lui, come si fa cordoglio per un figlio unico, e saranno grandemente addolorati per lui, come si è grandemente addolorati per un primogenito. Ascoltiamo ora la lettura nel libro del profeta Ezechiele, al capitolo 43. Allora udì uno che mi parlava dal tempio, mentre un uomo stava in piedi accanto a me, e mi disse: «Figlio d'uomo, questo è il luogo del mio trono e il luogo delle piante dei miei piedi, dove abiterò in mezzo ai figli di Israele per sempre». E ancora il capitolo 44. L'Eterno mi disse: «Questa porta resterà chiusa, non sarà aperta e nessuno entrerà per essa, perché per essa è entrato l'Eterno, il Dio di Israele. Perciò resterà chiusa». Dunque Yahweh, la divinità di Israele che si siede, che ha dei piedi e viene trafitto. Ritenuto per scontato che anche questa descrizione vada presa alla lettera e ritenuto quanto abbiamo considerato, cioè che Yahweh ha mani, piedi e faccia, non è poi così strano concludere pure che Yahweh cammini sulla terra. Del resto, camminava anche nel giardino dell'Eden. Dunque, la scrittura asserisce che Yahweh ha un corpo e si può vedere. Il profeta Isaia lo dice chiaramente. «Ascolta! Le tue sentinelle alzano la voce e mandano insieme grida di gioia, perché vedono con i loro occhi l'Eterno che ritorna a Sion». Conclusione: Yahweh non ha solo mani e faccia e cammina sulla terra, ma ha un trono, abita tra il suo popolo, poserà i suoi piedi sul Monte degli Ulivi per combattere, notiamo, come le altre volte, e verrà trafitto. Poniamoci alcune domande. Chi è quel figlio unico, il primogenito, che verrà trafitto, se non Gesù Cristo? Chi fermerà i suoi piedi sul Monte degli Ulivi, se non Gesù Cristo? E chi regnerà sulla terra, se non Gesù Cristo? Alla luce di queste riflessioni, non è più possibile considerare i testi citati in relazione a Yahweh in senso simbolico. Le parti narrative dell'Antico Testamento hanno trame che, separate dalle attività personali di Yahweh, diventano incomprensibili. Per cui ciò che la divinità degli ebrei e dei cristiani ha rivelato di se stesso non ci permette di scegliere una metodologia ermeneutica modellata dalle prove che preferiamo, per respingere poi quelle che non ci piacciono. Dobbiamo quindi prestare la dovuta attenzione alla realtà che il testo presenta per non cadere in un romanticismo biblico che è assai diffuso. È molto difficile pensare che la Bibbia sia stata scritta per degli iniziati. Se noi crediamo veramente che mediante essa la Deità abbia voluto parlare all'uomo, non possiamo certo supporre che egli abbia nascosto le sue verità alle persone con una normale intelligenza e che occorra cercare un senso nascosto dietro il significato letterale. Adamo ed Eva hanno avuto a che fare con la presenza di Yahweh. Abramo e Giacobbe hanno parlato in sua presenza, una presenza reale e corporea. Mosè sul monte Sinai ha parlato con Yahweh dotato di fisicità. O si accettano queste realtà o non si crede alla parola di Dio. Non è solo una forma di rivelazione che presenta Dio in sembianze umane, ma è l'asserzione che Yahweh ha sembianze umane, ha un corpo. La sua corporeità ha reso possibile la percezione di Dio. L'invisibile fu fatto visibile, l'incomprensibile comprensibile. Perciò chi affermi che Dio non abbia forma umana, ma che sia spirito e che essendo tale sia invisibile, non avendo né sostanza né consistenza fisica, per non cadere in contraddizione, deve distinguere Yahweh dall'Elohim. Molto probabilmente i detrattori della fede cristiana hanno colto questa lacuna e i cristiani del XXI secolo devono confessare con più chiarezza in chi hanno creduto. Cari ascoltatori, queste riflessioni hanno messo in evidenza l'antropomorfismo di Yahweh. Per non cadere in qualche estremismo occorre tornare alla Genesi, nel momento della creazione dell'uomo, cioè di un maschio e di una femmina. Da qui si capisce che, piuttosto che definire Dio un essere antropomorfo, sia corretto riconoscere che è l'uomo ad essere teomorfo. È Yahweh Dio, infatti, che creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Yahweh Dio creò l'uomo a immagine di Dio, cioè dell'Elohim. E per compiere un'opera completa, dovette formare un uomo e una donna che, completandosi nelle loro diverse caratteristiche, rendono la somiglianza al loro creatore verosimile. Questo fatto ci porta a ritenere che in cielo l'umanità non sarà asessuata, ma che ognuno manterrà le proprie caratteristiche sessuali affinché la creatura possa rimanere a immagine e somiglianza di Dio. Alcuni trovano difficile conciliare ciò con quello che Gesù disse, che cioè in cielo non ci si sposerà. Ma la sessualità è solo una espressione dell'essere maschio e femmina. Aggiungiamo ora un ultimo pensiero, cari ascoltatori. Le altre culture attribuivano alla loro divinità caratteristiche antropomorfiche, senza che ciò implicasse necessariamente che le avessero realmente. Non è forse possibile che questo sia anche il caso di Yahweh? Com'è possibile che la divinità abbia una fisicità simile a quella degli uomini? Vi è qualche altra indicazione nella parola di Dio che permetta di dedurre che Yahweh abbia non solo un corpo, ma che sia anche un uomo a tutti gli effetti? La risposta è affermativa e la troviamo in un essere veramente misterioso, cioè nell'angelo dell'Eterno. Ma questo sarà il tema del nostro prossimo appuntamento. Allora vi aspetto. Ciao a tutti.